Allora, siamo... Telesia vorrebbe che lei gridasse Terrone è bello. Però che c'entra Terrone? Ma no, ma cosa vuol dire? Ma no, ma io lo dico sempre. Guardi, io al sud, se fossi un politico del sud, cercherei di fare una cosa. Cosa? Che è incentivare il turismo e valorizzare tutte quelle realtà che ci sono, che magari vengono poco valorizzate. Questo è sicuramente quello che da fare al sud, più che fare le mega fabbriche, io lavorerei in quell'ottica. C'è anche un cantante, Omar Pedrini, ex Timoria, che dice di essere suo amico, che si è offerto per portarlo al sud. Omar sì, lo conosco bene. Un tarato di Brescia, proprio per quello, lo conosco. Conosco ormai, penso, da 6-7 anni. Organizzatevi, varchi questo confine, Sì, sì, ma non è che mi fa paura, è proprio una questione di impegni, e quindi non ho mai avuto la possibilità di organizzare. Va bene, quanto siamo? Conclusione, quanto è la partita? 0-0 sempre? Siamo 0-0. Sì, Padania femminile contro? 0-0, no, 1-0, 1-0 per noi. 1-0 della Padania femminile contro? Gozzo. Contro Gozzo, che gara è? Gironi di qualificazione, semifinali, cos'è? Semifinali. Lo dice Forza Italia per i mondiali? Forza Italia per i mondiali. Vabbè, Forza Italia per i mondiali, dai. Tanto forza Padania qua. Grande, grazie. Grazie, ah, buona serata.